Si segnala ai responsabili della sicurezza che il passeggero Gianluca Nicoletti viaggia da settimane in ogni treno possibile. Quando arriva a destinazione, sale nuovamente su un altro convoglio e riparte, apparentemente senza meta. Non sembra pericoloso, ma durante il viaggio cambia spesso scompartimento, intrattiene strane conversazioni con altri passeggeri, a volte legge, spesso telefona. Riceve messaggi al suo computer e sembra che il tempo non abbia per lui valore. Alcuni informatori riferiscono che alla fine del suo viaggio scombinato, ad aspettarlo, ci sia una donna. Quale rapporto lo leghi a tale donna, dalle nostre fonti, non è stato specificato. In ogni caso continuate a seguirlo, mentre il treno va. Il treno va. Perché c'è sempre una donna che aspetta dove terminano i binari. Un programma di Gianluca Nicoletti e Fabrizio Intonti. Ed eccomi di nuovo sul treno. Voi direte, cosa hai fatto nel periodo in cui la gente normalmente va in vacanza? Nulla. Ho viaggiato in treno. Ho viaggiato tanto in treno, ho viaggiato anche quando voi non mi ascoltavate e incontravo gente che mi raccontava le loro storie e volevo dirgli, ma sono in vacanza in questo momento, viaggio soltanto per piacere, non viaggio per lavoro, vedo se finalmente, magari tante volte, mi andasse bene, riesco a trovare questa famosa donna che da anni mi aspetta dove finiscono i binari. Quando arrivo alla fine di un binario inizia un altro binario e di donna non vedo manco l'ombra, invece vedo l'ombra di una donna accanto a me. Devo dire che è molto particolare questa donna. Questa donna sembra particolarmente elettrizzata quando passiamo sotto le gallerie. La sento viva, vivace, la sento presente. La sento quasi che voglia sfiorarmi quando siamo sotto le gallerie, quando nel treno è buio pesto, quando normalmente la gente ha paura, la gente teme, riusciremo da questa galleria, riusciremo dal buio. Ero terrorizzato da piccolo dalle gallerie del treno, quelle lunghe che non finivano mai. Pensavo, ma arriverà mai la luce? Poi arriva sempre, arriva naturalmente la luce. E quindi io ho potuto constatare che una donna è innamorata del buio. E ho cominciato lentamente, approfittando di questa sua intimità legata al buio, a farle qualche domanda. E ho capito che è una di quelle donne che non si negano esperienze di conoscenza. Non se le nega da molto tempo, ma ancora prima di quando esisteva Facebook, i social network, oggi è molto facile. Oggi la maggior parte delle persone che stanno in treno stanno con uno smartphone in mano. Una volta parlavano molto, ve l'ho detto all'inizio del programma, quando per le prime volte vi raccontavo dei miei viaggi in treno, la gente che telefonava. Oggi la gente che telefona, se Dio vuole, sempre meno. C'è sempre più gente però che chatta, che comunque condivide qualcosa. Si fa le foto fuori dal finestrino, fa le foto del sedile di fronte a sé, fotografa i piedi del signore davanti a lui che si è tolto le scarpe. Ma questo lo faccio sempre io. Beh, questa donna comincia a raccontarmi quella che la sua vita emotiva alla ricerca di stimoli in un mondo che secondo lei è troppo pieno di luce e quindi quella sorta di riposto piacere che avviene soltanto nella penombra lei lo va a cercare altrove. Io sono sempre stata affascinata e attratta dagli incontri un pochino fuori dal comune. Quindi, quali sono gli incontri fuori dal comune? Allora, io ho incontrato alcune persone, anzi molte persone in chat, però a questo punto diciamo la chat è diventata quasi routine. Lo fanno tutti, però cosa c'è fuori dal comune? No, infatti, no, sulla chat niente. Ho fatto invece altri, quando ero un po' più giovane, invece ho incontrato delle persone in maniera un pochino più particolare, ecco, per esempio... Ma perché? Che... Perché eri più avvenente, perché? Come? Eri più avvenente, dici, da giovane. No, perché... non lo so, perché ho comunque, diciamo, attraversato un periodo in cui ero più curiosa, sì, sicuramente ero anche più avvenente. No, però più che altro... No, fammi capire, scusa, la chat è un ripiego, solo per capire, perché sono curioso. No. Ti trovo avvenente anche adesso, anche molto, qual è il problema? No, la chat era un modo come un altro modo ulteriore per incontrare delle persone. Per esempio, in questo caso, chattando con questo ragazzo, era uscito fuori l'idea di incontrarsi, l'incontro al buio, e quindi diciamo un po' così. Cioè tu chattavi con un ragazzo sconosciuto? Sì, sì, sì, allora si tratta di molti anni fa, quando ancora diciamo non si mettevano le foto necessariamente. Quindi non sapevi nulla, oltre quello che lui scriveva non avevi nessuna idea di chi fosse. Non avevo un'immagine mentale di lui perché non c'erano le foto, nella mia, nella sua. E lui come si era descritto? No, fisicamente non ci eravamo descritti, ci siamo chattati, diciamo, abbiamo un pochino chattato sulla nostra persona, insomma non è che ci siamo descritti fisicamente. È uscita fuori questa idea di incontrarsi al buio, no? Nel senso l'incontro al buio, e quindi mi venne l'idea di farlo davvero, cioè di incontrarsi veramente al buio. Cioè nel buio fisico, l'incontro al buio è un incontro di due persone che non sono mai viste e si vedono alla cieca. Sì. Tu pensai proprio al buio, il buio buio. Al buio, nel senso di incontrarsi ma senza vedersi. Per fare questo ovviamente andava fatto in modo artificiale, perché qualsiasi posto può essere, cioè, è ovviamente illuminato, quindi abbiamo architettato... Beh, una dark room ci voleva, qualcosa del genere? Come? Una dark room, sono i posti dove è tutto buio, no, tutti no, entrano. Io, allora, all'epoca io vivevo con altre, ero nella casa con altre studentesse, ero una studentessa universitaria. Ah, quindi eri molto giovane? Avevo 25 anni, ero già laureata. Beh, avevi già idee articolate per la tua età? Beh, io ero incuriosita da... Io sono sempre stata incuriosita da tutto il mondo che gira intorno, anche volendo a, diciamo, sì, gli incontri particolari, anche ovviamente in questo caso si presumeva che ci fosse comunque qualcosa di... erotico da scoprire, perché era eccitante comunque. È chiaro, no, non è che al buio ti vedi con un uomo per giocare a briscola, è chiaro, questo è chiaro. Vabbè, ti piaceva l'idea, ti piaceva l'aspetto. L'idea di, sì, e quindi praticamente abbiamo escogitato questa cosa, nel senso all'epoca c'erano anche meno, all'epoca ora si tratta diciamo di 15 anni fa, così, però c'erano meno strumenti, cioè non avevamo il computer in casa per esempio, quindi non c'erano tantissimi LED da coprire, perché l'incontro era, te lo descrivo, insomma. Bastava svitare le lampadine, insomma. Allora, o toglievo proprio la corrente, oppure comunque ero sola in casa, perché io vivevo con altre studentesse, ma in quel periodo dell'anno loro non c'erano, quindi in pratica chiudendo le porte delle camere rimaneva la sala, diciamo, la cucina. Che era abbastanza buia, diciamo. Era buia se tu chiudevi, diciamo, tutte le tapparelle e coprivi il LED della televisione e qualsiasi altra lucina, diciamo, che poteva... Era buio pesto, insomma, così. Sì, sì. Ovviamente questa cosa comunque andava fatta spegnendo tutti i telefoni, perché sennò se si illumina il telefonino... Ovviamente tu vedi, si crea quella luce. Ma scusa, quando aprivi la porta non entra la luce? No, perché praticamente lui ha suonato, io ho socchiuso la porta, lui era d'accordo con me ovviamente. Io quindi mi sono spostata nella stanza, dalla parte del nel buco nero dove era previsto sì, l'incontro. Buco nero. Lui è entrato e ha richiuso la porta. Your glasses, you've been holding parties all your life, 'cause it's long gone down, you're still hanging around, it's not over till it starts again. avvertono i signori passeggeri che il treno effettuerà una breve sosta per le informazioni sul traffico. Restate in ascolto. Il mio piatto migliore. Quello grande, per le pizze Roncadin. Roncadin, nel banco freezer. Vi presenta... Il treno va. Bentornati a bordo, i viaggiatori in ascolto, interessati a fare una chiacchierata sul nostro treno o a sottoporre una vicenda personale, sono pregati di scrivere all'indirizzo mail iltrenova@radio24.it. Quanto hai organizzato questa cosa assieme a lui? Penso sia stato bello immaginarla, studiarla. Hai valutato che tu facevi venire uno sconosciuto al buio a casa tua? Sì, no, questo non c'era un margine rischioso di questo? Sì, questo, diciamo che io in questi incontri, diciamo questo, poi anche qualcun altro... Ma parliamo di questo prima, parliamo sì, di... Sì, sono sempre stata fortunata, cioè riconosco una parte di incoscienza totale... Cioè dovevi fidarti molto, quest'uomo ti ha dato molto affidamento, perché fare venire uno sconosciuto a casa propria, al buio... No, ero io che ero abbastanza molto incosciente. Eri molto, diciamo, eccitata dalla stranezza della cosa. Sì. No, in effetti è una cosa molto pericolosa. Poteva succedere qualsiasi cosa. Poteva entrare l'assassino di turno, oppure il ladro, oppure la persona malfidata. Potevi anche rimanerci male. Comunque funziona così. Sì. Avete organizzato il giorno, la data? Cos'era? Un pomeriggio, una notte, una sera, una mattina? No, una sera. No, perché poteva essere buio, nel senso... Comunque, buio anche luce, fuori, cioè. Sì, la luce penetra. Tu sei vestita tutta di nero, immagino. Io ero, questo no, non me lo ricordo esattamente, non ero proprio comunque molto vestita, cioè era una serata d'estate. Quindi eri nuda, aspettavi nuda al buio. No, però magari con una tipo baby doll. Ah, ti hai rimessa il baby doll e dille le cose, devo capire. Però esattamente non mi ricordo. Però col baby doll eri già pronta, diciamo, come un regalo dentro l'uovo di Pasqua. Sì. Allora, la prima volta che ci siamo incontrati, perché visti. No, devi lasciare, allora lui suona, tu sì. Apri la porta e corri al buio, sì. Chiudi la porta, lui chiude la camera e entra. E che succede? Io sento la porta che si chiude, quindi io mi riavvicino, è buio totale, buio pesto. E che ha detto lui? Ci salutiamo, nel senso... Ciao, come stai? Piacere, queste cose tristi. Sì, piacere. Ciao, Giovanni, Antonio. Ci siamo messi seduti e cioè, diciamo, intruppando un po' nelle sedie, perché... Ovviamente... Sulle sedie, ognuno su una sedia. Sì. Perché eravate in cucina, dove eravate? Nel tinello? In cucina. No, quindi incontro al buio, in baby doll, in cucina. Ma tu, la prima cosa che hai percepito di lui qual è stata? L'odore, la voce, l'alito, l'odore dei piedi? Cosa hai sentito appena entrato? Il fumo? La voce è la prima cosa, nel senso che tuttora, pur essendo passati tanti anni, penso che la riconoscerei, la voce. E poi comunque ovviamente ci siamo abbiamo iniziato a parlare anche Ma dimmi, perché è imbarazzante, cosa ci si dice? O ci si salta addosso subito o bisogna parlare del più del meno? Come succede? Sì, no, abbiamo la prima serata abbiamo solo parlato e toccato tipo le mani, la testa, diciamo ci siamo un pochino toccati per capire, fino per al collo sei arrivata, i lineamenti, no? Diciamo... Solo il viso è toccato, come un cieco quando vuole vedere una persona. Sì, come due ciechi. Sì. Fino alla fa. Quindi il baby doll era inutile, tanto non ci è arrivato. No, era inutile, sì. Potevi anche metterti lo scafandro, tanto... È fino vero, fino no, alla... infatti, e ora esattamente non me lo ricordo la prima volta, forse no, non avevo, forse una magliettina, era estate. Ma lui non ti ha dato manco una tastatina, niente, proprio le fa la faccia? No, il primo incontro... Tranquillo. Così. E tu cosa dicevi? Ah, come sei bello, lui come sei bella, che bei capelli. Queste strozzate che si dicono. No, abbiamo parlato, diciamo, come due che si incontrano in modo molto normale, cioè abbiamo parlato della propria, diciamo, studio, professione. Ma gli ho offerto qualcosa da bere? Un caffè nero magari, non lo so. No, perché non si poteva avere, giustamente. Davvero non si vedeva niente, quindi comunque non potevo aprire il frigo, cioè sarebbe stato... Già, si accendeva la luce, vero? No, non si poteva. Quindi niente, quante ore siete stati così al buio? No, sarà passata un'oretta. Credo. Vabbè, dopo un'ora lui ha detto, adesso me ne vado. No, sì, poi ci siamo salutati. Ma lui abitava nella tua città o veniva da fuori? No, è nella mia città. Ah, però... beh, quindi a portata di mano, figura. Sì, lontano, nel senso dall'altra parte della città. Comunque. Non sarà stata, non è certo Tokyo, immagino dal tuo accento, quindi una città, sì, che mediamente in 20 minuti l'attraversa da una parte all'altra, in bicicletta. No, io studiavo, ero studentessa, quindi il mio accento era un po', vabbè, sarei andata a Bologna, roba del genere. Si può dire, comunque era Roma. Roma, vabbè, anche Roma, sì. Vabbè, lui poteva venire anche da una borgata lontana. Sì, comunque, diciamo, ci doveva spostare con la macchina, sì. Trovare quindi... parcheggio, quello era il problema, mica tanto. Quello è sempre stato un problema. Vabbè, allora, quella prima volta, a un certo punto, dopo un'ora, lui dice, basta, è finita, ciao, così. No, sono io che gli ho detto, no, ero Vattene. Io, lui sarebbe rimasto, probabilmente, non lo so, magari... Ora, il primo tu non vedevi, ma probabilmente... No, diciamo, io volevo proprio, per me era proprio eccitante anche l'attesa... E per lui era eccitante, secondo te? Secondo me, inizialmente, sì. Cioè, hai dato un'occhiata oppure, cioè, hai dato una tastata oppure, lo immagino? No. No, al primo incontro no, al primo incontro no. Noi diciamo che in tutto ci siamo incontrati, mi sembra, 4 volte. Vabbè, questa è la prima volta. Una volta a un certo punto dici basta, ciao, finiamola così, lasciando sospesa l'attesa e l'eccitazione. E lui se n'è andato, tranquillo. Se n'è andato, sì, sempre nello stesso modo comunque. Cioè, io al buio, certo. Al buio, lui perché sennò la luce sarebbe grata. Okay. Sì. Ecco, ma tu non ti hai venuto il sospetto, cosa che io avrei fatto, ma io sono un infame, che comunque lui si poteva appostare sotto casa tua a vederti uscire, prima o poi uscivi e così vedeva com'eri. Vabbè. L'avrà fatto sicuramente. Sarebbe bastato accendere la luce se voleva. Eh no, beh, lì rompeva. Sì, mica è scemo. E così dopo rimaneva a bocca asciutta. Ti lasciava nel tuo gioco, ma comunque capiva se era il caso o non era il caso. No. Non hai avuto questo sospetto. Non ho avuto. Era un gioco leale. Allora, secondo incontro, come l'avete programmato e immaginato? Il secondo incontro è stato di nuovo lì, sempre lì. Dopo quanto tempo? Ma dopo un poco, tipo una settimana. Vabbè, è tanto, una settimana è tanto, scusa. Uno rimane con l'idea in testa per una settimana, avete centellinata questa cosa. Sì, no, vabbè, ma era, diciamo, è un pochino il gioco, consisteva proprio nell'attesa. Uno stillicidio infinito. No, era proprio un po' questa cosa. Un po' il mistero. Quindi nuovamente appuntamento, il tuo apri, tu ti nascondi, lui, com'è rivestita la seconda volta? Com'è rivestita? però non me lo ricordo, penso uguale alla prima. Sempre. Beh, avrei cambiato la maglietta, sempre la stessa. sì, probabilmente. Vabbè, sì. Ok. Baby doll o maglietta, non entriamo nel particolare. Lui entra, vi risiedete in cucina un'altra volta. Sì, di nuovo lì, sempre lì. Cioè, proprio in cucina, sulle sedie di cucina? Sì. Ma non c'è un posto un po' più comodo da abbuiare per l'incontro, no? Cioè, allora, sì, c'era anche la camera, infatti poi dopo comunque... Ma era sempre buia la camera? Sì. E allora perché non l'hai visto subito in camera? No, vabbè, per creare proprio questa cosa. Poi comunque se non ci fossimo... Senti, ma anche il bagno era buio? No, il bagno ci andavamo, diciamo, a turno. Ah, no? Perché se lui doveva fare la pipì al buio era anche imbarazzante. Appunto, cioè, se uno doveva andare in bagno ci andava, chiudeva la porta e l'altro non guardava di là. Cioè, perché sennò ovviamente la luce penetra. No, in bagno ovviamente uno... il bagno buio è un po' imbarazzante. No, con la porta chiusa ovviamente... Allora, secondo incontro, seduti sul tavolo di cucina, teli pronte, e cosa avete fatto? Sì, e di nuovo abbiamo parlato e ci siamo comunque toccati, sfiorati. Siete scesi dal viso in giù, ecco. Siamo scesi, sì. Cioè fino al ginocchio o al di sopra della cintura? Siamo scesi e no, penso, ora esattamente ti dico, non so se è il secondo incontro o il terzo incontro. No, è importante, sforzati, devo capire l'escalation di questa cosa. È passato un po' di tempo, forse sarà stato il terzo incontro. Il secondo, allora, semplicemente... Il secondo, comunque ci siamo sì, toccati, sfiorati, abbiamo capito un pochino meglio il nostro corpo, ci siamo baciati, ecco. L'hai anche annusato, hai sentito l'odore? Sì, annusati. Ti piaceva l'odore? Sì, Sì, se no non avrebbe... Beh, sarà stato lavato, profumato, figura, sarà messo 6 litri di colonia addosso, deodorante, figura, una cosa del genere, sapendo che era tutto lì, immagina te, sarà stato sì, con la spazzola di saggina a pulirsi dalla mattina. Vabbè, detto questo, tastatina, e dopo un'ora anche dici ciao, basta, fine, e lo mandi a casa. Però abbiamo comunque parlato tanto, stranamente magari non essendoci la vista eravamo più concentrati forse anche sul parlare. E avete parlato? Vabbè, si può parlare anche al telefono, comunque va bene, andando avanti. Diciamo un pochino della propria vita, lui mi ricordo che mi raccontò tantissimo di sé, del suo passato, della sua famiglia. Della sua vita avventurosa, le sue delusioni. No, che no, sofferto lui tanto. Non era molto avventuroso, infatti secondo me poi, cioè diciamo lui non ha retto fino in fondo questo gioco. Lucy couldn't carry a tune in a bucket. She worked slinging drinks down at a tavern by the tracks. Oh, with a 10-gallon mouth and all it attracts. Every Friday she'd sweep up the evening into her busted dustpan after those old timers sing Free Bird. All of those songs you have heard before. She drowns out the mundane. Informiamo i signori viaggiatori che il treno ripartirà tra poco. Il treno va. Si ricorda ai signori passeggeri di non lasciare incustoditi i propri bagagli durante il viaggio. Terza volta abbiamo fatto di nuovo questa cosa sempre a casa mia, e però poi siamo finiti sul letto. Insomma. Ah, quindi sei andato nell'altra stanza? Sì. Sempre al buio, no. Sempre al buio? Sì, tutto buio completamente. Diciamo, l'intima d'azione è avvenuta sempre al buio comunque? Sì. Sempre al buio. Quindi al buio, vabbè, al buio quello è abbastanza più normale, di solito si fa abbastanza in penombra al buio. Quindi avete soggiaciuto e ti ha posseduto come un animale affocato per tutta la notte. Quanto è rimasto? No. Quanto è rimasto? No, sarà durato 2 ore, 3 ore. Beh, 3 ore, la media nazionale sono 25 secondi, quindi 3 ore mi sembra buono. No, però nel senso che non ha dormito lì, perché se no poi dopo il gioco sì. Poi c'era anche la moglie a casa che l'aspettava. Possibilmente, probabilmente no, era ragazzo, anche lui era ragazzo, però viveva con una ragazza. Era convivente, chiaro, sta lì pronta. No, non lo so, non credo. Con il mestolo in mano. Vabbè, comunque lui è avvenuto, è stato un atto focoso, immagino, sì? Sì. Ti è piaciuto, è stato bello, vi siete detti tante cose. È stato bello, sì. Tutta la vita vorrei che fosse così, queste cose qua. No. Non mi è mai successo nella vita una cosa simile, questo lo sarete detto, dai, su. Sì, questo si dice, questo è classico, si dice sempre. Sì, ma più che altro secondo me era proprio l'eccitazione dovuta al fatto che io pensavo, sto facendo l'amore con una persona che non ho mai visto, nel senso che Era una sensazione strana. E come ti sentivi? Sentivi una donna perduta, una viziosa? Perché cos'è che ti piaceva? Un po' deficiente, mi sentivo ogni tanto. Vabbè, perché, deficiente. In effetti, è deficiente chi lo fa sempre con la stessa persona che la vede in faccia tutta la vita. Non mi sembra. No, perché diciamo queste cose strane. Nel senso, vabbè, strane, ti è piaciuto. Grande cavalcata. Poi che finì? A un certo punto, dopo due ore, ciao, vai, è andato. No, poi lui io percepivo già che questo, diciamo, il terzo incontro, così percepivo un pochino che lui comunque avrebbe voluto incontrare, cioè vedermi. Ah. E io invece volevo continuare questo gioco. Senti, mi dici una cosa, mi interessa. La sensazione generale era come vederla una persona. Cosa ti mancava dopo che una persona ci ha fatto l'amore, l'hai abbracciato, cioè l'hai sentito nella sua intimità? Cos'altro ti mancava? È come vedere. Poi il buio totale non esiste. Un pochino l'avrai visto, perché dicono, ma nemmeno se entri sotto un tombino, un po' la vista si abitua all'oscurità. L'avrai un po' visto, no? No, io no. Poi tra l'altro io ho anche, diciamo, un problema di, diciamo, alla retina, quindi ci vedi già poco te. Ah, sì. Beh, questo devi dirlo all'inizio, però scusami, l'hai voluto portare in un habitat a te più congeniale. Vabbè, allora, terza volta avviene l'incontro e lui se ne va. Poi? Comunque non manca niente, cioè mi sembra, io credo che lo riconoscerei, anche se ovviamente non ho un'idea proprio esatta. Non vi siete mai visti poi dopo quella volta? No, noi non ci siamo mai visti, perché io, allora, ci siamo rivisti un'altra volta, ci siamo rincontrati un'altra volta a casa sua e avevamo... Lui, siccome voleva, diciamo, comunque vedermi, avevamo stabilito un gioco in cui avremmo tagliuzzato le nostre due fototessera, questo ovviamente a casa, ognuno indipendentemente, e messe in un barattolino. Ogni volta che ci saremmo visti da quel momento in poi, ognuno dei due pescava un pezzettino, un puzzle. Vabbè, non finisce più sto gioco, scusa. No, infatti. Però comunque... Dopo quanti pezzettini si è rotto le palle e ha detto no, ciao? È stato interrotto da me questo gioco, perché ci siamo pescati solamente un pezzettino. Io tra l'altro ho giocato un po' sporco, perché non ho messo tutti i pezzettini, cioè, quindi ho evitato. Ma quanto potrà durare sto gioco? Altre 7 volte, 8 volte? No, questa cosa l'abbiamo fatta una volta sola. Beh, ci credo, noiosissima. No, poi dopo io ho interrotto, perché poi la cosa... cioè in realtà io ho interrotto perché volevo che si mantenesse nella nostra mente comunque questo ricordo così particolare. Quindi l'incontro fisico c'è stato solo la terza volta, la quarta volta avete giocato col puzzle? No, la quarta volta ci siamo incontrati, questa volta a casa sua, sempre curando il discorso. Sempre tutto buio anche a casa sua? Tutto buio, abbuiato. E quindi niente, la quarta volta abbiamo rifatto l'amore, così. Poi? I pezzettini. E abbiamo pescato questo pezzettino. E tu l'hai portato a casa il pezzetto? Sì. E che c'era? Che si vedeva? No, niente, era un pezzetto, diciamo, di una spalla. Ah, okay. Non vedeva niente. E quindi? Quindi nulla, praticamente io poi ho interrotto, cioè ho deciso di interrompere perché percepivo che lui voleva incontrarmi. Magari era la storia della tua vita, potete star bene, no? Ma io all'epoca non ero... Non eri interessata a avere storia. No, non volevo, diciamo, poi che si trasformasse in una vera e propria... Secondo me, ecco, lui in questa storia... Non mi seguiva moltissimo nella mia pazzia. Vabbè, lui una volta che aveva ottenuto, scusami. Sì, cioè lui voleva comunque, diciamo, forse non era neanche molto abituato. Io giocavo molto su questi incontri, cioè mi piaceva comunque il gioco. Vabbè, lui una volta che aveva ottenuto, diciamo. E lui era più l'intimo, diciamo, intingolo, che dopo l'intingolo non c'è altro. Se tu poi anche cominci con i giochini, con le carte, con le cose, aveva detto beh basta, che noia. Sì, però secondo me se ci fossimo visti non sarebbe rimasto questo. Ma lui com'era? Bello? Com'era? Un bell'uomo? Non lo so. Vabbè, lo so, l'hai avuto per le mani per due volte. Ma no. C'ha la panza, le maniglie dell'amore, flaccido, peloso. No, lui era magro, non troppo alto, riccio. Cioè, diciamo, ho in mente come potrebbe essere. Sicuramente non era una bellezza... diciamo particolare o sì, perché non... abbastanza normale come ragazzo. È trasformato in straordinario una persona normale, è andata anche bene, no? Anche a lui è andata bene, devo dire, perché nella vita ne capitano tante, ma una ti chiama a casa al buio, ti sollazza e non chiede nulla, mi sembra buona come cosa, no? Sì, è stata sicuramente un'idea così, un'esperienza. Ma poi l'hai rifatto con altri questo giochino, oppure? No, questo qui. Il gioco al buio solo. No, questo assolutamente no, doveva poi rimanere. Sono sicura che se l'avessi rifatto poi... Beh, non era più la stessa cosa, dai. No, devo inventarti un'altra cosa. Una volta, poi capitano magari... No, poi dopo non... E non te non è mai venuta la curiosità poi sapere come... No, in fondo non era una cosa importante. No, perché in realtà, allora, io so come si chiama lui e anche lui sa come si chiama. Vabbè, basta andare a cercare su Facebook. Infatti, a questo punto sì. Io non l'ho mai fatto, non so se lui l'ha fatto, probabilmente magari l'avrà fatto. Io spero di no, perché comunque secondo me un po' si rovinerebbe questo racconto. Senti, ma dopo questa volta qua, tu hai detto che sei una molto appassionata alle cose fantasiose, ti sono venute altre idee, hai avuto altri incontri da raccontare? Sì, ho incontrato per esempio ho avuto alcuni altri incontri un pochino strani, per esempio uno era il message in the battle, praticamente mettere un messaggio con una mia amica, abbiamo fatto questa cosa dentro una bottiglia nella spiaggia. C'è proprio una bottiglia di vetro, come si faceva? Sì. E l'ha buttata in mare? No, perché io avrei voluto buttarla in mare, ma questo poi mi rendo conto che poi la bottiglia viene infranta addosso allo scoglio, non la troverà. Però lasciala infilata nella sabbia. Bravo, sì, l'ho infilata lì nella sabbia. Ma questa cosa è stata interessante perché... E che c'era scritto? Nel messaggino che c'era scritto? Avevamo trovato una poesia, ora non mi ricordo, una frase, diciamo... poetica, però in questo non mi ricordo esattamente. Ma tipo, ti ricordi meno il poeta? No, non mi ricordo. Una frase di queste tipo, ma diciamo baci per Regina, insomma. Cioè tipo? Tipo quando, molto romantica, tipo magari quando ci incontreremo, che il destino vorrà che noi due ci... E tu hai messo anche il telefono? Sì, e poi ho messo il telefono. E avevo messo questa pergamena, diciamo, no? Fatta pergamena con il nastrino rosso dentro a questa bottiglia e si vedeva che c'era un messaggio, ma la cosa diciamo simpatica, io ero insieme a questa mia amica, che le persone che passavano di lì non la notavano, non l'ha notata nessuno. Watching the video that you sent me. One where you're showering with wet hair dripping. You know that I'm obsessed with your body, but it's the way you smile that does it for me. So si avvertono i signori passeggeri che il treno effettuerà una breve sosta per le informazioni sul traffico. Restate in ascolto. 57° Salone Nautico, dal 21 al 26 settembre, a Genova. Vi presenta... Il treno va. Si informano i signori passeggeri che fra qualche minuto passerà in carrozza il personale del treno per offrirvi un piccolo spuntino. Vabbè, di bottiglie se ne don tanto, non è che uno si ferma a raccattare una bottiglia sulla spiaggia. Vabbè, ma dentro c'era questo... Vabbè, uno che... deve aprirla per vederlo. In questo caso, niente, vabbè, è stata una cosa, al finale è stato molto più squallido, nel senso che l'ha presa, poi mi ha chiamato una persona che era praticamente il signore che fa le pulizie nelle spiagge. L'ha raccattata, quello della nettezza spiaggiale, urbana, non so come si chiama. No, lui voleva incontrarmi. Cioè lo spazzino te l'ha presa la bottiglia. Sì, vabbè, e poi è un essere umano anche lui, che vuol dire? No, infatti. Certo, ma tu pensavi un principe azzurro, quello che arriva lì con la scopetta. Non era quello che immaginavo io, perché comunque era un signore, diciamo, sui 60 anni. Vabbè, che c'hai contro i signori di 60 anni, scusa. No, vabbè, ma io all'epoca avevo... Quanti ne avevi? 23 anni. Vabbè, sì, c'è un po' di scalino. Beh, comunque il 60enne attizzato l'ha trovata e dice, ho la bottiglia in mano. E quindi? Sì. E tu hai detto, no, guarda, è un errore, mi hanno fatto uno scherzo le amiche. No, io non so, io praticamente l'ho incontrato perché lui comunque... Ah, sei andata a vedere le carte anche col vecchietto, mamma mia, più giovane di me. Sì, l'ho incontrato, cioè abbiamo preso un caffè lì in spiaggia, insomma. E non ti sei concessa, però, era troppo. No, speravo qualcosa di diverso. Beh, lui ci sperava, però. Lui sì. Ah, lui dice adesso, figurare, l'acchiappo della mia vita. Era lì con la bottiglia in mano che ti aspettava? No, ma era una persona molto semplice, molto... Però semplice, ma... comunque ti ha chiamato, non è semplice ma ci ha provato, no? Sì, però ecco... Vabbè, tu gli hai preso il caffè e gli hai detto, guarda, non è proprio cosa. No, poi non mi piaceva, cioè fisicamente era brutto, non... Però nel biglietto è scritto, risponda soltanto chi è giovane e bello, se no, scusa. È vero. Vabbè, comunque, allora, che hai fatto? Hai ributtato la bottiglia? Questa è finita così anche questa esperienza, no? È finita male, questa la bottiglia non è andata proprio un granché, no? No, è andata male, questa volta è andata male, sì. Poi? Sì. Che ti sei inventata? Poi, mi sono inventata un'altra volta, ho dato il mio numero tramite radio, in una radio, diciamo, locale. Vabbè, la radio locale, il tuo numero, dice questa, hai dato il numero di telefono alla radio, dicendo cosa? Chiamatela? Praticamente dati il mio numero, una descrizione di me sommaria, così anche lì un po' per gioco, per vedere chi mi avrebbe chiamato, e praticamente poi dopo, nelle ore successive, mi sono arrivate una cosa come tipo 90 telefonate, messaggi. Beh, ci credo. E lì quella volta mi sono incontrata con un ragazzo che poi è diventato un mio amico, andammo a ballare insieme, ascoltavamo la stessa radio, e quello è stato una cosa piacevole, non così strana, insomma. Com'è che sono incontro alla radio, dai? E poi un'altra volta mi sono incontrata sempre con uno della chat in un locale di saune. Ma il saune è proprio ambiguo, il posto di saune. Sì, infatti sì. È proprio un postaccio, lì si va proprio, capito? Quindi la prima volta, diciamo, per fare un po' il contrario del primo incontro che ti ho descritto. In mezzo alla luce. Cioè, in mezzo alla luce, praticamente nudi. Tutti erano nudi nella sauna. Ma noi non ci eravamo mai visti, però. Vabbè, quanta gente c'era dentro questa sauna? No, c'erano anche altre persone, però sì, era la cosa, diciamo, particolare. Ma tutti nudi, proprio i nudi completi? Sì. Pensavo, almeno le mutande uno si deve mettere, no? No. Ma si lessa gli attributi? Vabbè, comunque questi sono problemi. Diciamo, siete entrati nella sauna tutti nudi. C'è un accappatoio che loro. No, niente, ecco, in questo caso per esempio è stato anche lì un pochino, le aspettative erano quelle di fare un incontro strano, nel senso comunque vedersi la prima volta lì, poteva essere un incontro un pochino il contrario del vedersi senza vedersi, insomma, dell'incontro al buio. Poi nulla, quella volta anche lì non è andata così. Beh, cosa potevi fare dentro la sauna, scusa, oltre vederti? Non è che, non lo so, a meno che anche le sane la gente va per ingrupparsi. non credo. No, però diciamo, quando si incontra in chat, si hanno spesso delle aspettative. Vedersi, in questo caso, per esempio, questo ragazzo non mi piaceva, quindi... Comunque tu sei molto sicura di te stessa, perché ti mostri nuda così vuol dire che sei convinta di essere molto a posto, no? Più che sicura di me stessa, perché io comunque mi reputo una persona molto comune, non sono sicuramente... Vabbè, sono le donne, cioè mi vedrà le smagliature, Dio mio, mi vedrà qua, mi vedrà là, non mi sono depilata bene, no, non c'è i problemi. Più... No, frega niente. Sono sempre stata più convinta della situazione. Noi donne siamo molto più anche così attratte, almeno io sono sempre stata attratta dalla situazione più che dall'uomo stesso. Creare una situazione eccitante. Comunque ti sei data perché non ti piaceva lui? Ma che c'aveva di brutto? Che c'aveva di brutto? Fisicamente non mi piaceva. Cioè c'aveva un vermicello rattrappito per la sauna e detto lasciamo perdere, di la verità. Un po' sì. No, le parti intime non l'ho notate. Anzi, non ho visto. Vabbè, niente. Te piaceva, dai, guarda, vedere un uomo nudo, adesso uno proprio fa tanta palestra, molto bello, se no, uomo, meglio vederlo sempre in penombra, capito? Meglio al muro. No, infatti, diciamo, questo altro ragazzo sono un po' più sfortunato, perché comunque vedete. Anche lui è proprio scemo, fatto. Perché ti giuro, a meno che non facessi il culturista o degli sport estremi e avessi 20, sì. 22 anni, non accetterà mai una cosa del genere, cioè c'è da rimanerci secchi. Sì, infatti non. Vabbè, no, comunque ha avuto coraggio, onore al coraggio. È vero, e sarà consolato nella sauna, c'erano tanti signori probabilmente, un giretto poteva farselo con loro. Va bene, e quindi mi sembra che alla fine, a parte l'incontro del buio che è stato l'unico che ha portato a casa un po' di companatico insieme all'amichetta che ha incorporata, non è stata poi tutta sta grande vita da messalina, tanti tentativi, tanti sospiri, tante attese, tante invenzioni teatrali, ma poi alla fine rimedia più quella che va in balera il sabato sera, non lo so. Ti ripeto, ero diciamo attratta da alcune situazioni che potevano essere più fuori dal comune, magari situazioni che le mie amiche non avrebbero mai cercato, mai immaginato, no? Va bene, senti, sì. Cara, è stato affascinante capire e sapere che esistono ancora donne così avventurose e così fantasiose. Mi sembrava che ormai fosse una sorta di stirpe estinta, quindi fortunato il signore del buio, un po' meno fortunato il bagnino, povero signore che raccoglieva i rifiuti sulla spiaggia, ancor meno fortunato e ancora vittima di una inarrestabile crisi di identità l'uomo che si presentò nudo a te in sauna, non valutando il fatto che il vapore può fare brutti scherzi. Ciao, buon viaggio. Autrefois je ne savais pas qu'il est des mots qu'on n'entend pas. Mais un soir une ombre revenue qui m'a dit écoute un peu plus. Une voix te parle en mots inconnus. Entends-tu tout bas la voix silence. Je m'en suis allé promener, les peupliers se sont penchés pour me raconter des histoires qu'ils étaient les seuls à savoir. Et le vent et la mer doucement chanter la voix du silence. Et depuis j'ai vu bien des gens qui jetaient des mots à tout vent et qui discouraient sans parler, qui entendaient sans écouter ou composaient et des chants que nulle voix n'a repris. Et la voix du silence. Les hommes ne voient plus les fleurs, ils en ont pris des rides au cœur. Ils espèrent en faisant du bruit